buon pomeriggio. Sono le 2. E da questo momento comincia il cammino di Gigi D'Agostino. Una piccola oasi musicale dove suoni e ritmi provenienti da panorami diversi danzano a tempo al passo di Gigi D'Agostino e altre storie. E altre storie. Di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Ah, regà, non giocare. Ecco qua, va. Consuma ciolino, ma con man mano. Volete far sentire il vostro pensiero? Mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Presenta nuova C2 VTS Super Sprint, la regina delle piccole cattive, in anteprima assoluta, al My Special Car di Rimini. Nuova C2 VTS Super Sprint, la versione di C2 VTS iperaccessoriata per tutti gli amanti del tuning. Marmitta sportiva a doppia uscita, fari posteriori trasparenti, cerchi in lega bianchi con chevron rosso, strisce adesive bianche con logo e battitacco personalizzati. A prezzo speciale, nuova Citroen C2 VTS Super Sprint. Too fast for you. Vieni là a scoprire sullo stand Citroen. Al My Special Car di Rimini, dal 13 al 15 aprile. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Mica una radio a capocchie. We'll be right back. D'Agostino e altre storie. Cammino di Gigi D'Agostino. Voglio la cassa che mi scassa. Sono in viaggio e penso che Spagna e Francia sti pesanti.

e riprendiamo il nostro viaggio. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Violento, violento, violento, violento. però adesso faccio una mixata. Cammino del Gigi D'Agostino. Basso. Dai. E... sì. Cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, basso, basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, cazza basso, basso. La scienza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza, Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che vuol venire interrottamente. Gigi D'Agostino. Una sequenza ritmica di paesaggi incontaminati. Qui si vola a tempo, attraverso le armonie. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Al numero 3334

cammino di Gigi D'Agostino. Una sequenza ritmica di paesaggi incontaminati. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Thank you. Gigi D'Agostino. E altre storie. Turn it out. what's coming. You're just missing the best by far. Hey, you're not in safekeeping. It is all beginning right now. Hey, can't you see what's coming? You're just missing the best by far. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Manda un abbraccio a tutti gli uomini e un pigia pigia a tutte le donne. Ci sentiamo domani. Grazie.